Io sono un giornalista che vale $250 la settimana. So manovrare notizie grosse e piccole, se notizie non ci sono, so lavorare di fantasia. 24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Presidente? Sì, tutta la notte. Tutta la notte abbiamo parlato anche della parte, diciamo, stare insieme a lui. E mentre parlavamo lui mi ha dedicato anche delle poesie durante la notte, poi mi ha parlato, mi ha detto io ti aiuterò, non preoccuparti, so il problema che tu hai. Patrizia D'Addario che raccontava in tribunale le notti col presidente Berlusconi. Io non capivo, a un certo punto le dicono: vabbè, ma cosa volevano dire le farfalle? Lei guarda l'avvocato, dice: avvocato, lei lo sa bene cosa vuol dire? Era una cena a base di farfalle. E poi pare che verrà depositato. È stato depositato il CD. Non credo che sarà nei migliori negozi a disposizione. Il CD di che? Della notte d'amore tra Patrizia D'Addario e Silvio Berlusconi. Perché ha registrato tutto la D'Addario. E poi pare, non lo so, che... vabbè, in altre dichiarazioni ha detto: sono arrivata lì, c'erano altre ragazze, ma quando stavamo... insomma, io... vabbè, mi sono spostata perché non ho mai fatto un'orgia. Però devo dire, cari ascoltatori, che queste cose ormai finiscono a pagina 10 dei giornali, eh. Non è proprio anche da qui si capisce che sono cambiati i tempi, sono cambiate le situazioni, sono cambiate le ere, sono cambiati i protagonisti veri della politica. Queste cose sarebbero finite in apertura di Repubblica, il CD in allegato col Fatto Quotidiano, solo 2 anni fa. E invece adesso così si raccontano un po' boccaccescamente, finiscono a pagina 10 dei giornali, ma tant'è, le trovate oggi, La notte d'amore e la cena a base di farfalle tra Patrizia D'Addario e Berlusconi. Però in tutto questo Patrizia D'Addario ha dato la notizia del secolo. Forse non lo sapeva neanche, ma ha dato la notizia del secolo e io così la riporto a voi. Perché Patrizia D'Addario dice: a un certo punto vidi un cane che si chiamava Fru Fru e ora scopro che si chiama Dudu. Ecco, per me questa è la notizia che mi farà passare un weekend, non lo so neanche come. Fru Fru è il vero nome di Dudu. Intanto saluto Lorenzo Nespoli in redazione, saluto tutti voi cari ascoltatori, il nostro alpino Peter Bescapè in regia. E il Parlamento si può anche inaugurare, in questo giorno di fine settimana. Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Grazie. Allora, voglio salutare subito Andrea Sarubbi, un uomo che vive in Parlamento praticamente. Andrea, buongiorno. Buongiorno a voi. È suonata la sveglia. Stamattina sì, l'abbiamo fatto solo un po' prima, ma devo ringraziarti per avermi allietato la sveglia con queste notizie. Fru, io non ci posso, non uscirò più da questo incubo in questo weekend. Voglio salutare subito Paolo Del Debbio, che conduce Cara Quinta mia, Colonna. Come va? Ecco qua, c'è Andrea Sarubbi, ex parlamentare, grande, collega, grande giornalista. Buongiorno a tutti, sì, buongiorno. No, no, ma che giornalista prestato alla politica. Sì, caro, anche un gobbo. La politica lo ha restituito in fretta. Esatto, anche un gobbo maledetto. Anche un gobbo maledetto, tifoso della Juve, di quelli proprio impenitenti, sì. Ah, sì, sì. Ma di quelli proprio, di quelli cattivi, di quelli che godono. Ma in Europa, Alino, quest'anno tifo Milan, veramente, te lo devo dire. Sì, ecco, vedete la cattiveria proprio, gli esce, si sveglia già, come diceva mio nonno, ti svegli te sei già catif, proprio sei già cattivo appena sveglio, no? Allora, Del Debbio, fru fru è la notizia, queste sono cose pesanti, questa è una chicca, Fru fru, dai. Altro che Dudu, dica la verità, Berlusconi si chiamava Fru fru un tempo. Ma sarà stato lui o forse era il padre di Dudu? Vedrai che ce ne sono due di cani. Forse da Dario si è confusa col papà di Dudu. Sì. Fru fru. Vabbè. Non fai lavorare quel cervello, su. Comunque è una notizia questa, a parte gli scherzi. Quale? Di frufru? Sì, perché vuol dire che siccome Berlusconi i cani non l'ha mai potuti vedere in vita sua, no? E la persona che gli ha portato il cane a casa è stata Francesca Pascale. Ah, quindi vuol dire che anche all'epoca delle cene il rapporto c'era e durava, insomma. Ma attenzione, qua c'è il giornalista d'inchiesta che viene fuori, Era una verità dura, ma qualcuno doveva dirla. Effettivamente. Ma come fai a sapere che Berlusconi non ha mai amato i cani? L'ha detto lui. Ha detto proprio più volte, ha detto di cena, e poi io tra l'altro, insomma, lei ha insistito così tanto, alla fine mi sono rassegnato, però mi sono innamorato di questo cagnolino, insomma, questa è una delle dichiarazioni politiche più importanti degli ultimi due anni. Insomma, si è tradito con le sue stesse mani, con questa dichiarazione. Secondo me sì, bisognerebbe analizzare bene questa storia di Fru Fru, perché potrebbe aprire nuovi orizzonti. Allora, qui abbiamo due amici, amicissimi, uno Del Debbio, stimatissimo amico del Movimento 5 Stelle, proprio uno che ama il Movimento 5 Stelle. Mi amano dall'inizio. E Andrea Sarubbi pure, anche lui. Sì, io sono stato anche giornalista del giorno per qualche volta sul blog. Ah sì? Microfono di legno. Ma abbiamo due premi Pulitzer per il Movimento 5 Stelle, microfono di legno per di Grillo, ha dichiarato varie volte io Del Debbio lo odio. La moglie, e cosa gli hai fatto alla moglie di Grillo? Nulla, ti giuro, nulla. Nulla? Non gli ho toccato neanche il cane. Ti odia però, ti odia. Ragazzi, e quindi qua, gioco facile. Allora devo farvi subito sentire un Di Maio, vicepresidente della Camera. Per contrasto devo farvi sentire Di Maio. Sapete, sono stati espulsi due del Movimento 5 Stelle. Stavolta però scrive il Fatto che Grillo era per la linea morbida, mentre Casaleggio per la linea dura. Quindi forse si incrina qualcosa. Comunque Di Maio invece dice tutto giusto. La scissione in questo momento non è più esclusa. Ma decidano quello che vogliono. Ma questo rischio lei lo vede? Cioè, questo rischio all'interno del Movimento 5 Stelle sarebbe una roba enorme dopo un solo anno e mezzo in Parlamento. Ma quale scissione? Non ho capito. Io non ho sentito di questa questione. Me lo sta dicendo lei. Hanno votato gli iscritti, quindi secondo me è stata giusta la votazione. Anche se non si è passati per l'Assemblea dei Deputati. Ma in questo caso non si è chiesto la permanenza nel gruppo parlamentare, ma l'assegnazione del simbolo. Punto. Del Debbio è così, ma ne rimarranno in pochi? Siate teneri, voi microfono di legno e giornalista del giorno, Del Debbio. No, mi ha colpito che per la prima volta abbiamo ricevuto una mail in redazione lunedì scorso, che uno di questi chiedeva di partecipare, di venire in trasmissione. Sì, uno degli esclusi, poi di venire in trasmissione, cosa che non era mai accaduto, poi che si rivolgessero a me proprio, se non per insulti, esatto. Ma la questione lì è molto chiara, che siccome sono regole abbastanza opache quelle con le quali si decide di volta in volta se si sia l'Assemblea degli iscritti, se sia l'Assemblea parlamentare, se sia un'altra entità o se sia, diciamo, una pignità fatta da Casaleggio e Grillo, sì. E poi tra di loro fanno il gioco delle parti, non è che litigano, non è mica, non è che fanno finta. Ma sì, è ovvio che fanno così. E allora, capito, ogni volta va bene una cosa, cioè se il gruppo parlamentare è sfavorevole fanno votare gli iscritti, se gli iscritti sono sfavorevoli fanno votare il gruppo parlamentare, se tutti e due sono in un momento di stallo decidono i due capi supremi. Insomma, regole opache. È un giochettino. Insomma. Vabbè, sentiamo qua anche l'altro amico del Movimento 5 Stelle. Caro Andrea, allora eccoci. Ma credo che il problema sia il ruolo di Casaleggio, che è l'unica cosa che non è condivisa da nessuno, secondo me, nel Movimento 5 Stelle, e che però nessuno ha il coraggio di dire. Cioè io più volte ho rapporti con parlamentari del Movimento 5 Stelle, molte persone di buona volontà davvero, che però sono a disagio nella struttura, cioè anche quando si tratta di andare in televisione. Adesso è saltato un po' il tappo, ma fino a 15 giorni fa ricevevano degli inviti, magari potevano anche dire di sì spontaneamente, però poi dopo si sarebbe creato il finimondo, avrebbero rischiato l'espulsione, come è già accaduto appunto nei giorni scorsi, solo per il fatto di andare in televisione e così via, e quindi si devono rivolgere a questa autorità esterna. Almeno Grillo, voglio dire, uno che va in piazza, parla, si prende il suo consenso personale, se lo porta dietro. A Grillo devono tutti quanti, no? la loro permanenza lì, ma Casaleggio è tutto sommato un nominato. È colui che ha creato tutto. Io continuo a dire, l'ho sempre detto, che un movimento così, che non ha una cultura politica, una storia, o lo governi così, col bastone, no? In maniera figurativa, ovviamente, oppure ti sfugge di mano. Cioè, sì, beh, è chiaro che è così, perché voglio dire, se o fai una struttura leaderistica, va bene, però con qualche parvenza di democrazia, e alcuni partiti così ci sono, oppure fai una struttura, diciamo, di questi santoni carismatici, eccetera, eccetera, a quel punto poi o quelli, gli adepti, si comportano da adepti, e cioè vanno avanti per un rostro, oppure se minimamente, ma basta un micron di millimetro, sì, no? Sì. E cominciano a discutere e finisce la struttura, cioè si incrina, perché non può essere una struttura gerarchica totalmente e totalmente democratica, diventa un casino. Non è che mai se nella chiesa il papa, vescovi, cominciano tutti a discutere, eccetera eccetera, cioè una setta. Mi sembra che oggi sia molta più discussione nella chiesa, eccolo là, Sarubbi dice che si discute di più nella chiesa, effettivamente molto di più, il sinodo sulla famiglia, vabbè, ecco, esatto. Ovviamente adesso daremo anche gli account Twitter del Debbio non ce l'ha, ma di Andrea Sarubbi, in modo da fargli passare una bella giornata a tutti gli amici del Movimento 5 Stelle. Vuoi dire la cosa più dura che ti viene in mente sul Movimento 5 Stelle? Noi la twittiamo, ovviamente, dicendo che l'hai detta tu. Ma secondo me tipo sono allo sbando, una roba del genere. No. Che avevano un rigore nell'ultimo periodo, ma hanno perso il pallone per strada. Vabbè, però non è così dura, cioè devi fare delle cose, non so, vinci. Una cosa brutta. Sì, dai, una cosa brutta. Vediamo, un po' ci devo mettere la morale, è troppo presto. ho capito. Ora parte un contest. Il contest è questo: ci aiutate a capire che cosa dice Nichi Vendola in questa dichiarazione? Ecco, questo è il contest. Mi raccomando, aprite bene le orecchie, cercate di capire, cercate di tradurre, perché sono 19 secondi, ma pregnanti. Vorremmo che ci aiutaste a capire il significato delle parole di Nichi Vendola. Uomini e donne, vecchi e bambini, normodotati e diversamente abili, il fattore umano nel mondo di oggi come diventa la bussola per organizzare l'agenda pubblica, come diventa la pietra angolare per ricostruire un vocabolario, una tavola dei valori. Del Debbio, parti tu. Mettere l'uomo al centro, così mettere l'uomo al centro. Sarubbi, secondo me. L'ha detto un po' di gente, insomma, sì, sì. Il nuovo del Vecchio Testamento. Io l'ho capita diversa. Ah, attenzione, ah, ecco, sì. vedi già, Sarubi. Sì. Ai. Ha detto che si devono mettere insieme tutti quelli che non sono d'accordo col PD. Vabbè, insomma, ecco, questo. così ha capito, cioè fare. Hai capito questo. Comunque, rimettere l'uomo al centro, il valore, il capitale umano. Ti piace questa parola del Debbio, capitale umano? Già qualcuno la critica. Capitale umano è un qualcosa che non va bene. Vabbè, sai, sono cose che vengono fuori, poi durano. Perché sono cose fatte da un comitato, come quando gli assegnarono di fare, di disegnare un comitato di cavallo, venne fuori il dromedario, no? È un po' vendoliana questa dichiarazione, sì, esatto. l'ho capita un po' così, vendoliana. Io vorrei farvi sentire Santoro. Vai, sentite Santoro, prima di andare al traffico. Ieri ha sbroccato anche lui. Santoro, eccolo, Fanculo ai partiti, fanculo i politici, fanculo Berlusconi, fanculo Monti, fanculo Alfani, Fini, Casini, Vendola, fanculo pure i movimenti, fanculo Beppe Grillo, che ha trasformato una grande speranza in una specie di stato di bananas con epurazioni, espulsioni, e fanculo Renzi. Del Debbio, quando è che vedremo un bel editoriale di Paolo Del Debbio così su Quinta Colonna? Non te lo posso permettere. Non te lo puoi permettere. È troppo. Mannaggia, ragazzi, ma che gli hai preso? Non lo so, forse avrà digerito male. Sì, guardare le cose. Non so, vediamo la lettura di Sarubi, forse voleva dire che bisognava fare una nuova... La lettura è molto più seria, la lettura è questa, che a molti di questi, essendo sfuggita ormai la mangiatoia che era il centrodestra e Berlusconi, sono disorientati, il mondo ormai si è rovesciato, nel senso quindi... che non hanno più il nemico, non hanno più l'amico, non hanno più questo, hanno sbroccano, più quello. Sbroccano. È difficile viaggiare in un mondo quando... Pensa se tu costruisci tutto su un nemico, metti che sia Sarubi, e a un certo punto Sarubi si fissa. E che fai? Non lo so. Nemico sei. Andiamo al traffico, poi rientriamo da qui. I nemici. 24 mattino. Milan, se salta il presidente il discorso, lo farà Barbara D'Urso. Io ho sentito quella registrazione di quei giovani che insultavano i poliziotti. Questo è il frutto degli insegnamenti della sinistra. Chi semina vento raccoglie tempesta. Milan, la Bindi, facciamo presidente della Repubblica, è la migliore in assoluto. La Bindi. Io sono innamorato di Rose Bindi. Silvio, scendi a me. Vieni di Nannavo, ti facciamo fare un re, ti facciamo fare. Lascia perdere l'Italia, lascia perdere Salvini, lascia perdere Fit. E io sono come prima che dico, viva il re di Napoli, viva Silvio Berlusconi, re di Napoli. Caro Milan, allora io vorrei Berlusconi come presidente della Repubblica. Oh, te lo immagini nel discorso di Capodanno. Allora, si presenta con la bandana, vi racconta quattro barzellette, vi fa due cucù, canta due canzoni con Apicella e alla fine le corna a tutti gli italiani. Ciao Alessandro, sono Susanna, tutta panna, quella dei formaggini, te lo ricordi? Pitipitum. Ma chi è Susanna tutta panna? Ragazzi, ma Sarubi, qua ormai è l'ora della pazzia, alle 6.45, capisci? La gente com'è bella pimpante. Alino, ma scusa, per curiosità, perché sì, insomma, io da ascoltatore te lo chiedo. Sì. Ma tu a che ora vai a letto la sera? Ah, mannaggia, guarda, mi fai una bella domanda. Ieri sono crollato alle 10:30, per esempio. Ho visto un po' di X Factor. Aspetta, ti sei perso Morgan su X Factor? No, che ha fatto? La sceneggiata. Cioè, in confronto Santoro era una suora orzolina. No, aspetta, io ho visto fino alle 10:30 X, e se n'è andato ancora. No, vabbè, ha fatto dei numeri, ha cominciato a urlare come un pazzo. Perché se io penso a quanti soldi mi danno per sta qua, ho detto no, veramente eccezionale. No, vabbè, altro che frufru, altro che Santoro. Altro che frufru, roba forte, oggi andrò a vederla. L'ultima volta se n'è andato per fare questa sceneggiata, poi è tornato. Vabbè, insomma, adesso io comunque sì, 10:30, le 11 volte. Mi sveglio alle 5. Basta. Parlavo di Santoro. Santoro. Parlavamo di Santoro, altra curiosità, infatti non ne abbiamo, no. No, ma sai perché? Cioè, la cosa strana di Santoro è questa. Entrambi, sia Santoro sia io, in contesti diversi abbiamo avuto un'esperienza in politica provenendo dal sì, giornalismo, no? Sì. A me è rimasto un rispetto per la politica, perché ho capito, stando dentro, che ci sono persone che ce la mettono tutta. Poi è un problema di sistema, ora la storia della mattina non ci mettiamo a fare discorsioni grossi, sì. Però insomma, qualcuno che ce la mette tutta c'è e si potrebbe fare molto di più. A me è rimasta la voglia, no? Invece lui che fa? Sputa nel piatto dove ha mangiato. A lui è rimasta solo la rabbia, questo mi dispiace molto, perché secondo me non avvicina i cittadini ma li allontana. Ah, hai capito del debbio, Sarubi come graffia. Sarubi però nobilita, Sarubi nobilita. Sarubi il problema lì è che quando tu costruisci tutto su una cosa, ci costruisci la tua ideologia, ci costruisci i programmi, ci costruisci tutto, il budget, il fatturato, eccetera. E so, quando si tratta poi si mette a rabbi, dai. Non andiamo troppo in là. Vabbè, stiamo sempre molto in qua. Voliamo bassi, dai, sentiamo Razzi allora. Voliamo bassi, sentiamo Antonio Razzi, eccolo qui, l'unico che morirà fedelissimo a Berlusconi fino all'ultimo secondo. Forza d'Italia, noi abbiamo solo un leader, Silvio Berlusconi. Anche se è azzoppato. Anche se è un po' azzoppato. No, assolutamente. Anzi. Quello sta più in forma di me, ma forse sta più in forma di te che sei più giovane. Quando un giorno non sarò più senatore, che i cittadini decidono di non rimandarmi al Senato, allora sono libero di andare all'isola dei famosi o all'isola dei non famosi. Magari con Berlusconi, no, tanto. Ma perché no? E lui è un grande. Io dico, ma Razzi, ma quali cittadini decidono di mandarti al Senato? Sei al Senato perché ci sono le liste bloccate e vorrei conoscere un cittadino, uno, sua moglie forse, un suo parente che vorrebbe mandare Antonio Razzi al Senato. Tu, Sarubi, ne hai mai incontrato uno? Degli immigrati coreani. Uno, mezzo cittadino. Che... No, ma tra l'altro Razzi ebbe una storia incredibile quando venne eletto con Di Pietro. Sì. Perché lui venne eletto in Svizzera, no? Certo. Allora, come forse ricorderete, in Svizzera, cioè diciamo, gli eletti all'estero sono quelli che raccolgono preferenze. È vero, quindi mi devo correggere. Quindi lui... Lui viene eletto con delle preferenze, spesso dei patronati locali, eccetera. Insomma, è un voto abbastanza organizzato anche quello all'epoca. Però ci fu un problema di conteggio, per cui fece ricorso il secondo. Insomma, qualcuno disse che forse c'erano stati dei brogli all'interno dell'Italia dei Valori, e Di Pietro disse, vabbè, non facciamo esplodere il caso, mettiamolo un po' a tacere, stiamo tranquilli. Vabbè, ma adesso è stato rivotato e stavolta non all'estero, ma in Italia. Fammela finire, perché disse a Razzi, fai metà tu, metà legislatura tu, e metà legislatura quello che è arrivato secondo. E lui ha cambiato. Metà legislatura Razzi è passato più o meno con Berlusconi. Quindi la vera storia non è il mutuo da pagare. No, certo, altrimenti avrebbe perso i soldi per il mutuo. Ecco. Sì. Vabbè, del debbio, che dobbiamo fare? Del debbio, come va con la piazza? Ti vedo sempre combattivo l'ultima volta con Poletti, quegli inviato. Con i Rom. Sì, la piazza, sai, non è che scegli molto, cioè, poi alla fine quel che capita. Dopodiché sta a noi tenerla dentro i binari, a volte ci riesci, a volte va un po' fuori, a volte la riporti dentro, insomma, la piazza è così. D'altra parte o la fai o non la fai. Non è che c'è la via di me, la piazzetta o la piazzina, la piazza, non la domestichi. Insomma. Non la domestichi. Se la domestichi lo vede chiunque, che è domesticata poi non gli interessa. Mm. E lunedì che fai? Ci puoi anticipare qualcosa? No. Ma lunedì ci abbiamo... Naturalmente ci occupiamo ancora di queste periferie, perché non molliamo sul colpo, nel senso che non vorremmo che ora, dopo un po', una settimana o due, via i fari, via nessuno tutto. Ne parla più. Intervista a questa simpatica ragazza che gli diceva al poliziotto: servo del potere, morirai infelice. Mamma mia, io dico sempre, vallo a dire a un poliziotto in America in faccia, così a 10 centimetri, e poi auguri. Grazie ad Andrea Sarubi, grazie a Paolo Del Debbio, vi devo salutare, alla prossima. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Sono le 7:16 minuti e la 82esima settimana decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province così sfuma via nell'oblio, nell'assoluta inconsistenza, nella incapacità di decidere. Ma l'83esima settimana decisiva è alle porte, settimana prossima chissà, noi manteniamo alto l'ottimismo e quindi si potranno fare le cose promesse. Queste due soprattutto. Vedremo, vedremo. Intanto, cari ascoltatori, oggi parleremo di che cosa? Beh, parleremo, avremo ospite l'onorevole Walter Rizzetto del Movimento 5 Stelle. Che succede nel Movimento dopo l'espulsione di due parlamentari? Ma avremo anche ospiti due imprenditori che racconteranno dal proprio punto di vista come sia difficile poi questa battaglia, lo dico così, battaglia con lo Stato. Sul fronte delle tasse, per esempio, sul fronte del pagamento dei debiti a pubblica amministrazione, questo dalle 8:15. Infine ricordatevi che andremo sempre, sempre a scoprire da oggi un ascoltatore che ci sente dall'estero, è da noi, un ascoltatore ogni giorno alle 8:50 da una parte del mondo ci ascolta in diretta. Oggi dove andremo lo scopriremo alle 8:50. Ora andiamo a leggere i giornali. Quando è venerdì 28 novembre i titoli sono questi, il Sole 24 Ore apre così il grande occhio fiscale controllerà i conti correnti, questo è il titolo di prima pagina, mentre per Repubblica parla Juncker, il presidente della Commissione Europea, non sanziono l'Italia, credo nelle riforme, questo Juncker in un'intervista a Repubblica. La Stampa, conti pubblici 2015 a rischio, oggi il giudizio della Commissione, il giudizio che però è anticipato un po' dalle parole di Juncker a Repubblica. Per il Corriere della Sera invece la vicenda dei vaccini, morti sospette e caos, 3 vittime in 10 giorni, sospesi 2 lotti del vaccino anti-influenzale. Il Messaggero, influenza, morti dopo il vaccino. Il Giornale, 3 morti dopo il vaccino. Il Giorno, allarme vaccini. E il Secolo XIX, morti sospette, alt ai vaccini. Per il Movimento 5 Stelle invece l'apertura è il Fatto Quotidiano. Nuove espulsioni, rivolta Movimento 5 Stelle, assedio sotto casa di Grillo. E il Manifesto titola così su Grillo, il cacciatore. Per Libero invece il lavoro che c'è, le aziende cercano 500.000 persone. Vogliamo però partire proprio da questo allarme ai vaccini senza fare allarmismo, ma l'allarme c'è se l'Agenzia Italiana per il Farmaco in via cautelativa ha sospeso le iniezioni del vaccino anti-influenzale Fluad della Novartis. Non usate quei vaccini, questo è il titolo a pagina 2, dopo 3 morti sospette, non accertate, ma sospette, 2 in Sicilia, 1 in Molise, entro 48 ore dalla somministrazione del vaccino contro l'influenza, c'è una quarta persona in grave condizioni, ecco allora che l'Agenzia del Farmaco, pur dicendo col suo presidente Luca Pani non si crei paura e terrorismo, ma chiaramente in via cautelativa ha sospeso questa iniezione. Tra l'altro Pani, Luca Pani, fa un'intervista a Repubblica, pagina 7, e dice «Eravamo obbligati a intervenire, ma sono sicuro che non c'è pericolo». Esordisce così «Io mi sono vaccinato con il Fluad un mese fa, così tutti i miei familiari. Il farmaco è perfetto, non è corrotto, non è mai stato confezionato, sono pronto a scommetterci, non è stato mal confezionato. I vaccini sono tutti sicuri in generale, quelli anti-influenzali sono tra i più sicuri». E allora come si spiega quello che è successo? Ci sono autopsie in corso, ma dobbiamo tenere proprio conto del fatto che sono persone in avanti con gli anni. Sono certo, tra i vaccini e i decessi non c'è nesso. così il direttore dell'agenzia del farmaco. Però, direttore, siete stati voi a dare l'allarme. Certo, abbiamo dovuto farlo. Al primo morto non avrei fatto niente. Poi è arrivato il secondo, con lo stesso stock di farmaco. Quindi il terzo dovevo dare la sospensione cautelare. Già, ma quando inizierebbe lei a pensare a una correlazione tra vaccinazione e decessi? Sentite come risponde il presidente dell'AIFA. Dopo 80 morti, la casistica inizierebbe a diventare pesante. Quindi non dopo 3 morti, ma dopo 80 morti. Rischia il panico, cioè c'è la paura, secondo lei? È già partita, l'effetto psicosi è già partito. In alcune regioni, alcuni ospedali hanno iniziato a ritirare tutti i vaccini. È una cosa pazzesca, dice il direttore dell'AIFA, che insiste, continuate a vaccinarvi. Certo, però, loro stessi l'hanno sospeso, ma spiega in via cautelativa. Vabbè, questa vicenda ovviamente la terremo sotto controllo, mentre è rispuntato, cari italiani, la vicenda delle notti e delle cene eleganti, le cene come l'ha definite Patrizia D'Addario ieri in tribunale a Bari, le cene a base di farfalle, è rispuntata sui giornali, perché la testimonianza di Patrizia D'Addario ha fatto ripiombare, per la verità non nelle prime pagine come era qualche anno fa, all'epoca del bunga bunga, adesso finisce tutto a pagina 10-15, segno, come dicevo prima, di un'era anche un po' politicamente cambiata, ma comunque per una giornata Patrizia D'Addario con la sua testimonianza riconquista le pagine dei giornali raccontando la sua notte di amore e di poesie che Silvio Berlusconi le ha dedicato in una delle famose cene eleganti. Tarantini disse, questa è la testimonianza invece di un'altra ragazza, Barbara Montereale, se capita Berlusconi ti dà 5.000 euro oppure una macchina. Ma comunque è la dichiarazione, sono le dichiarazioni di Patrizia D'Addario, che è arrivata fragile, piangente, sento tremori, ieri in tribunale a Bari nel processo nei confronti di Tarantini, che ha accusato di avere procacciato le escort a Silvio Berlusconi. E Patrizia D'Addario racconta tra le lacrime della sua notte d'amore con Berlusconi, ho avuto rapporti sessuali, racconta di quando era l'unica ragazza vestita mentre le altre erano senza calze e senza slip, era tutto pieno di farfalle, eravamo in 20-25 donne. Berlusconi mi stringeva, ballavamo, mi baciava, e poi mi ha portato in camera, ha voluto che mi sdraiassi, c'erano altre tre ragazze, ma mentre mi stava toccando me ne sono andato in bagno perché io non ho mai fatto un'orgia. Così Patrizia D'Addario, che nella testimonianza del tribunale dà anche certamente quella che è la notizia del giorno, vale a dire questa: ho notato che c'era anche un cane che lui chiamava Frufru. Disse che gliel'aveva regalato Bush. Ora ho visto che si chiama Dudu. Ma come? Cioè, Dudu sarebbe in origine, secondo Patrizia D'Addario nella testimonianza, Frufru, in realtà, il vero nome di Dudu. Chissà, ci interrogheremo per l'intero weekend su questa notizia. A cena con Berlusconi ero la sola vestita, anche pagina 11 del Messaggero. E così anche la Stampa, io l'unica vestita alle cene con Berlusconi, racconta Patrizia D'Addario, che c'è anche un CD, perché ha registrato tutta la notte d'amore e quindi ci sarà anche, è stato depositato il CD audio, non video, audio della notte d'amore tra Patrizia D'Addario e Silvio Berlusconi. Allora, ci siamo occupati varie volte del della vicenda delle case occupate, anche ieri lo abbiamo fatto, torna questa vicenda sui giornali, in particolare su Libero e sul Giornale, perché racconta, per esempio leggo da Libero, da Michela Ravalico a pagina 11, Renzi toglie il reato, porte aperte alle occupazioni, è un allarme che lancia Libero, per la verità lo lancia anche il Giornale, e riguarda la legge delega 67 del 28 aprile scorso, per la quale mancano solo i decreti attuativi, perché c'è scritto Libero, in un ritaglio nemmeno troppo nascosto della norma approvata da Camera e Senato e già pubblicata in Gazzetta Ufficiale, si scopre che tra i reati depenalizzati c'è il primo comma dell'articolo 633 del Codice Penale. Si tratta della norma attraverso la quale una società come Aler la partecipata di Regione Lombardia che gestisce il patrimonio delle case popolari può effettuare gli sgomberi in caso di occupazioni abusive. Così è la denuncia del consigliere del Comune di Milano Marco Snato di Fratelli d'Italia, che lavora proprio all'Aler. Lo conferma anche un collega di Forza Italia: il governo vuole depenalizzare l'occupazione abusiva. Contro chi occupa si potranno fare solo cause civili della durata media di 10 o 15 anni. Quindi la denuncia di Libero: Renzi toglie il reato, porte aperte all'occupazione. Questo anche per il giornale: depenalizzano le occupazioni. È così? Bah, staremo a vedere. Intanto invece siamo al momento del premio Mani sul Volante, l'articolo che ci fa pensare di questa giornata, e stanno arrivando tantissime vostre foto sia via mail 24 mattino e radio24.it, sia sul mio profilo Twitter Alino Milan. Io devo fare l'invito tutte le volte: per favore non fate la foto mentre state guidando, che è pericoloso, fatela da fermi o fatevela fare da un passeggero, e mandatecele le vostre foto. Chi ce le manda coi denti sul volante, chi sul manubrio, chi in treno. Comunque, il premio di oggi per l'articolo che ci fa pensare va a Gian Antonio Stella del Corriere della Sera, che racconta la storia dello stipendio nascosto dal manager. La vicenda del direttore generale dell'aeroporto di Ronchi Legionari nel Friuli Venezia Giulia. Quanto guadagna in questo aeroporto che è controllato dalla regione Friuli Venezia Giulia? Beh, la stessa regione non lo sa. È una questione di privacy. Deborah Serracchiani dice: sono soldi pubblici, ma mi hanno risposto quanto ho chiesto. Quanto guadagna il direttore generale dell'aeroporto? C'è la privacy, spiacenti. Ebbene, secondo un'inchiesta del Messaggero Veneto, ripresa oggi dal Corriere della Sera, guadagnerebbe il direttore generale dell'aeroporto di Ronchi Legionari 255.000 euro, cioè 100.000 euro in più della stessa presidente della giunta Serracchiani, più addirittura di Giorgio Napolitano. Lo stipendio nascosto dal manager dell'aeroporto del Friuli Venezia Giulia. Eccolo qua, 250.000 euro sono queste? Chi lo sa? Chi lo sa? Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Informazione, ultima frontiera. Queste sono le notizie di Alessandro Milan per raccontare di eventi e persone che mai giornalista aveva scoperto prima. Mamma mia, che enfasi, che epopea. Va bene tutto, grazie, un abbraccio caro ascoltatore. Chissà come sta George Clooney che ci ascolta. George Clooney, un abbraccio anche a George, ovviamente. Allora, alle 7:34 minuti continuiamo la lettura dei giornali. Oggi, sapete, è il giorno in cui la Commissione Europea dà le pagelle, deve decidere se le leggi di stabilità dei vari paesi, compresa l'Italia, sono promosse, e si va verso la promozione per l'Italia, anche perché Juncker, presidente della Commissione Europea, rilascia un'intervista a Repubblica ed altri giornali europei. Parla esplicitamente e anticipa che non ci sarà bocciatura. Infatti, pagina 2 e 3 di Repubblica, Juncker dice: avrei potuto sanzionare Italia e Francia, ma stanno facendo le riforme e io non sono un burocrate. La nostra sarà un'analisi approfondita e per nulla compiacente, leggo da Repubblica le parole di Juncker. Per alcuni paesi saranno necessari sforzi supplementari, ma un conto è dire chiaramente come e perché non si rispettano gli impegni del patto, un altro è punire con sanzioni e procedure. Del resto, da Italia, Francia e Belgio abbiamo ricevuto lettere con impegni precisi e circostanziati. Non ci stiamo assolutamente allontanando dalla strada del risanamento dei conti pubblici, se pensate questo. Per due volte negli ultimi mesi il Consiglio europeo ha detto chiaro che non si cambiano le regole della disciplina fiscale. Ma la differenza col passato e con Barroso è che stavolta non siamo stati noi a dettare a Francia, Italia e Belgio cosa fare. Sono stati loro a decidere le riforme che intendevano attuare e comunicarcele. Io solo ho detto che non volevo indicazioni generiche, ma un calendario chiaro che comprendesse le proposte del governo, la tabella di marcia della loro approvazione attraverso l'iter parlamentare. Insomma, si va verso una promozione per l'Italia e anche per la Francia da questo punto di vista sulle leggi di stabilità, mentre qui, ma tra poco lo vedremo anche sul Sole 24 Ore, arriva la promessa, secondo alcuni, di una lotta spietata all'evasione fiscale. Quante volte l'avete sentita nella vostra vita questa promessa? Lotta spietata e dura ora all'evasione fiscale. La politica italiana, ovviamente, il Movimento 5 Stelle finisce su tutte le prime pagine. L'espulsione di due deputati. Ha votato la rete, ha votato credo il 70%, ha deciso di espellere Massimo Artini e Paola Pinna, due deputati, perché non avrebbero restituito per le piccole e medie imprese, il fondo per le piccole e medie imprese, parte della diaria. Espulsi terremoto 5 Stelle. Che succede? Che alcuni, un gruppo di ribelli, come definiti dal Corriere della Sera, sono andati da Grillo, sono stati capitati al deputato Segoni, che viene intervistato a pagina 4, è arrivato a casa Marina di Bibbona da Beppe Grillo. Samuele Segoni è riuscito a entrare a parlarci. Com'è andata, onorevole? Male. E con una ciliegina sulla torta finale che mi ha demoralizzato. Beppe ci ha detto che il movimento va bene così, portando come prova i contatti avuti sul sito. Io gli ho fatto capire che il successo di un progetto politico non si misura dai click su internet e lui mi ha risposto che sbagliamo, perché è un modo per contare quanto seguito abbiamo, perché giornali e TV sono morti. Vabbè, insomma, il solito Beppe Grillo. E sugli onorevoli Artini e Pinna ha detto che devono essere espulsi perché colpevoli, ma abbiamo capito che Beppe purtroppo è male informato. In realtà il movimento pare dividersi, non si capisce quanti siano i cosiddetti dissidenti, quelli che disapprovano. Secondo il Messaggero c'è un piano neanche troppo detto, neanche troppo nascosto, ma neanche troppo svelato. I dissidenti puntano a Pizzarotti come nuova leadership. Il retroscena sarebbe questo, che nessuno dice ad alta voce, ma qualcuno pensa: rottamare Grillo e sostituirlo con Pizzarotti. Il problema, scrive il Messaggero, è che i cosiddetti dissidenti sono schegge impazzite, divise anche tra di loro. Comunque, lo stesso onorevole Artini, intervistato da Tommaso Ciriaco di Repubblica, certifica così a pagina 11: questi sono matti. Parleremo, vedrete, sarà un fine settimana divertente. Sono molto contento per gli imbecilli che si sono privati di uno dei migliori parlamentari in circolazione, a detta di tutti. Sta parlando di se stesso, eh? Ma lei pensa addirittura a qualcosa di irregolare? Dico solo che non c'è la certificazione del voto. E questa volta io non mi fido. No, non mi fido. Vabbè, chiaramente lo riguarda in prima persona. Anche il Corriere, la base, contesta il blog che tutto controlla. Beppe Casaleggio, non vi reggiamo più. E c'è una pagina di Emanuele Buzzi con la base, cioè l'elenco anche di messaggi sui blog, di contestazioni. E si ricordano anche i 22 volti, 22 dal gruppo, fuoriusciti dal gruppo parlamentare, a pagina 5 del Corriere della Sera. Secondo il Fatto Quotidiano, tra l'altro, questa volta la triade si è divisa. Secondo un retroscena che trovate a pagina 3, determinanti erano Casaleggio, padre e figlio a questa vicenda, mentre Beppe Grillo avrebbe preferito tenere una linea più morbida. Questo almeno racconta il Fatto Quotidiano. Vabbè, invece il resto della politica è tutta incentrata su Renzi. Renzi che rilancia la sfida con la CGIL. Un bel duello all'OK Corral, Renzi, Camusso, ne sopravvivrà uno solo. E via, e andiamo avanti così. Forse è la soluzione migliore. Se no, c'è giorno dopo giorno lo stillicidio delle dichiarazioni. Renzi che dice: con Monti e contro la Fornero non avete scioperato. La CGIL che ribatte con un tweet. Contro le politiche di Monti si scioperò. E i giornali che ci fanno articoli. Questo è lo schema. Tra l'altro, nel PD parte ora la nuova guerriglia per il Colle. Racconta la stampa, la sinistra avverte Renzi, serve un presidente garante per il paese, no ad accordi al ribasso con Berlusconi. Mentre Maria Teresa Meli e Francesco Verderami sul tema del Colle fanno un articolo in prima pagina che continua poi a pagina 9 per raccontare: è pronto l'invito di Renzi alle forze politiche per trovare il profilo più idoneo. Quando se ne andrà Giorgio Napolitano, forse tra un mese, Renzi farà un appello pubblico a tutte le forze politiche chiedendo la collaborazione a individuare il profilo più idoneo senza entrare nei soliti giochi e giochini di reciproci dispetti e veti. Che ci saranno, ovviamente. In tutto questo il centrodestra è in continuo fermento, no? Sapete che Fitto scalpita e Berlusconi frena. Berlusconi ieri ha fatto una cena coi suoi a Palazzo Grazioli, ma questo Fitto quanti voti ha? Questo è il titolo di pagina 8 del Corriere della Sera. Cioè Berlusconi ha detto, ma insomma, io cerco anche una persona in grado di fare il centravanti. Mamma mia, niente, ormai siamo nelle metafore calcistiche che io non sopporto nella politica, ma poi quando partono queste cose sono irrefrenabili. E allora, ma come? Io tendo la mano a Fitto e lui fa così. Ma alla fine, quanti voti, quanti parlamentari controlla davvero? Questa è la domanda che Berlusconi ha fatto ai suoi. Addirittura, secondo la stampa, nell'articolo di Amedeo La Mattina, a pagina 9, Berlusconi avrebbe detto: io sono pronto anche a farmi da parte se trovate un giovane all'altezza. Ma chi è Fitto? Alfano rispetto a lui è Messi. Questa è la frase con cui Berlusconi avrebbe messo una pietra tombale su Fitto. Alfano rispetto a lui è Messi. Salvini invece, beh, uno che segna va messo in squadra, ma non può essere l'unica punta. Basta queste metafore calcistiche, non se ne può più, sono partite. Sono assolutamente incontrollabili ormai. Salvini è una punta, poi la mezza punta. Alfano è il Messi della politica rispetto a Fitto. Noi abbiamo qua il falso 9, Mauro Meazza, buongiorno, eccolo qua. Buongiorno, beh, io devo dire, scusami, per il cognome che porto sono l'unico che merita una metafora calcistica. Perché io scusa. No, cioè, tu al massimo puoi fare una metafora, come dire, della societaria di tutta quanta la squadra. Vabbè. Io posso essere un centravanti, scusami, con questo cognome. Vabbè, io sono solo la squadra più titolata al mondo, quindi. Se si passiamo, mamma mia, che peraltro ieri però a livello internazionale non abbiamo visto, o ho sbagliato canale, perché ho visto solo la mia squadra. No, io ho visto X Factor ieri, non so. Ah, ecco, esatto, ma invece abbiamo avuto un fattore di carattere molto importante. Senti, io voglio farti la metafora scolastica. Oggi ci danno le pagelle, Ecco. La UE, la Commissione Europea, ci dà questa mattina l'opinione sul bilancio previsionale italiano, cioè la pagella. Sappiamo che più o meno sarebbe un 6 meno meno, e poi dobbiamo tornare a marzo con i genitori. Adesso non so se, come dire, con la giustifica. Con la giustifica, dobbiamo portare la giustifica che sarebbe poi la legge di stabilità, le varie riforme, eccetera. Vedremo che cosa ci diranno. Hai visto che si promette maggiore forza nella lotta all'evasione? Questo è l'apertura. Cosa vuol dire meno vincoli ai controlli? Cioè? Ecco, vuol dire che se prima c'era una specie di innesco progressivo per la super anagrafe dei conti correnti, cioè sai che è stata alimentata una banca dati con le posizioni dei conti correnti, però si diceva prima individuiamo quelli che sono a rischio e poi andiamo a cercarli. Adesso invece questo tipo di passaggio preventivo viene meno. Comunque si va a guardare e poi dopo, se si trova qualcosa che non va, ad esempio tu che continui a sostenere di avere due urini, si viene a chiederti conto. Perché questi due urini, insomma, vogliamo vedere se veramente in banca c'hai due urini oppure no, caro Alessandro. Vabbè. Ecco, poi sappi, stai collegato al computer perché ti danno la busta arancione online, non so se hai visto, parliamo di pensioni innanzitutto. Busta arancione sarebbe una busta che l'INPS avrebbe dovuto fare, ma poi non si è deciso di soprassedere sempre, per dirti quanto prenderai di pensione. E poi non si è mai fatto, adesso stanno rilanciando questo programma, si chiamerà Simula e trovi tutti i particolari su norme e tributi. Si potrà farsi insomma la busta arancione da soli online, una specie di busta arancione dell'IKEA in cui uno se la fa per conto suo, ecco. Ti voglio informare, l'avevamo detto qualche giorno fa, all'Istat hanno trovato un accordo sui precari, meno male sia per i lavoratori precari sia per i dati dell'Istat che altrimenti non avremmo avuto. E guarda, sulla local tax forse c'è un po' di gente che finirà col non pagarla, ma ti rimando non alle pagine di norme e tributi stavolta, ma alle pagine di primo piano. E con tutto questo premesso e augurandoti una serena domenica, io e augurandoti una buona partita di calcio per la tua squadra. Ma io penso che sia sospeso il campionato, comunque ne parliamo lunedì. Vabbè. Mi sembrava che fosse sospeso, vediamo lunedì se era sospeso o no. This is George Clooney and I also like listening to 24 Mattino. Eccolo qua, grande George, un abbraccio anche ad Amal, abbracciaci anche a Elisabetta Canalis, se la rivedi. Allora, saluto il nostro amico Remo dalla Dig Seychelles, saranno un po' le nostre invidie che oggi ti hanno fatto svegliare e farci dire che è un po' nuvoloso alla Dig. Comunque saluta tutti i debosciati d'Italia dalle Seychelles, il nostro ascoltatore Remo. Ogni giorno conosceremo un ascoltatore che ci ascolta dall'estero, ma qui dovete tenere ancora le mani strette sul volante, oppure appoggiare le tazzine del caffè bollenti, attenzione, c'è un'inchiesta di Repubblica interessante sui conti fuori controllo, in particolare in base a una relazione della Ragioneria Generale dello Stato, i conti di Roma. Se non siete di Roma, siete da tutta Italia. Sappiate che Federico Fubini ci fa sapere che abbiamo speso tutti noi italiani per i debiti di Roma solo dal 2009 a oggi 2 miliardi e 55 milioni. Siete contenti, cari italiani? Capitale brucia miliardi, così Roma affonda in un default pagato da tutta Italia. Federico Fubini, l'operazione di salvataggio per ora ha fallito nel suo obiettivo più importante, voltare pagina. 4 miliardi, in realtà sono 4 miliardi di aiuti in 5 anni da parte di tutti gli italiani. 4 miliardi per Roma Capitale. Per iniziare a bruciare meno denaro pubblico, offrire servizi più efficienti. La relazione della Ragioneria è questa: per liberare l'amministrazione di Roma dall'assillo dei debiti, dal 2009 al 2012 i contribuenti italiani si sono accollati oneri da 580 milioni euro l'anno. Durante lo stesso periodo hanno trasferito a Roma Capitale altri 885 milioni di euro solo perché l'amministrazione potesse continuare a funzionare. Infine, nel 2013, i contribuenti di tutto il paese hanno mandato alla città di Roma altri 485 milioni e si sono accollati debiti per ulteriori 115 milioni nella gestione commissariale che funziona ormai da bed bank della città eterna, cioè l'entità governativa che gestisce i debiti e le poste finanziarie più intrattabili raccolte in eredità nelle ultime due o tre amministrazioni. Forse che la soluzione sarebbe un bel crack, un bel fallimento. Mi dispiace ovviamente per tutti i romani che ci ascoltano, mi odieranno in questo momento, poi diranno sì, ma io pago le tasse, che faccio, mi ritrovo senza i servizi. Che dobbiamo fare? Se fosse una società normale sarebbe già fallita da mo', no? Che dite? Comunque, lasciamo l'Italia, diamo uno sguardo agli esteri con un paio di notizie. Vi segnalo l'intervista che Francesco Battistini fa sul Corriere della Sera al generale Haftar. Chi è il generale Haftar? È colui che promette ora di essere il nuovo uomo forte della Libia. Paese fuori controllo, parla in esclusiva al Corriere della Sera, si presenta come leader degli anti-islamici, dice: io posso essere il controllo della Libia, altrimenti la minaccia dell'ISIS arriverà da voi in Europa, nelle vostre case. Io combatto il terrorismo nell'interesse del mondo intero. La prima linea passa per la Siria, per l'Iraq e proprio per la Libia. Gli europei non capiscono la catastrofe che si rischia da questa parte del Mediterraneo. Attraverso l'immigrazione illegale ci arrivano jihadisti turchi, egiziani, algerini, sudanesi, tutti fedeli ad Ansar al-Sharia o all'ISIS. Quanti italiani sanno che davanti a casa loro, a Derna, è stato proclamato il califfato e si tagliano le teste? L'Europa deve svegliarsi. Questo è il messaggio del generale libico di 71 anni, ufficiale generale Haftar, che dice alla domanda di Francesco Battistini: ma lei quindi chiede armi? Come un sostegno dato ai curdi, lei vorrebbe armi? Non c'è bisogno di venire a dirvi per favore aiutatemi, siete voi che dovete capire se è il caso di aiutare il generale Haftar. L'Egitto, l'Algeria, gli Emirati Sauditi ci mandano armi e munizioni, ma è tecnologia vecchia. Non chiediamo che ci mandiate truppe di terra o aeree a bombardare. Se abbiamo le forniture militari giuste, facciamo da noi. Il mondo vede i nostri soldati decapitati, le autobombe, le torture, e vi chiedo: potete accettare tutto questo? Questo è il generale Haftar che parla al Corriere della Sera. C'è anche ancora la vicenda di Michael Brown, ucciso da Darren Wilson, l'agente che non sconterà nulla e che, racconta la stampa, ha vissuto gli ultimi mesi in eterna fuga. Il mio indirizzo è finito sul web, sono dovuto scappare, mi sono rifugiato dal mio avvocato, mi sono a volte anche truccato da donna, ho passato questi mesi andando spesso, tutto truccato, nei cinema al buio a vedere un film dietro l'altro. Racconta Darren Wilson quello che vorrebbe: una vita normale, ovviamente in anonimato, dopo quello che è successo. Parrà un po' difficile. Tra l'altro, siamo in momento di conclusione, siamo al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali vince oggi un'intera pagina del giornale. Andrea Cuomo, che dopo che Carlo Cracco, chef, ha confessato amo le patatine e le mangio, è andato a chiedere a tutti gli chef se mangiano il junk food, e allora una pagina per dire che Marco Martini ama i marshmallow, Daniele Usai, altro cuoco famoso, mangia i popcorn caramellati, Arcangelo Dandini mangia il buondì. Ma chi se ne frega? 24 mattino. Sono le 8 e 16 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qui. Allora, ogni tanto ci scrivono imprenditori, ci telefonano, si sfogano, dicono: guardate che qui fare impresa, qui vuol dire in Italia, è sempre più complicato, sempre più difficile, lo Stato è visto ormai come un nemico, un succhiatore di energie e di soldi. Ieri, per esempio, su Panorama la copertina era dedicata a un imprenditore che è titolare della BCS Group di Abbiate Grasso, da lavoro a 700 persone, fa impianti agricoli, trattori, tanto per capire, ma non solo, macchine agricole. E la domanda è questa: io pago l'85% di tasse, vi sembra giusto? 85%. Saluto Fabrizio Castoldi, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno. Castoldi, davvero l'85? Tanto lei è partita tutta questa vicenda perché lei ha fatto uno studio comparato sulle aziende simili alla sua in Cina. E in Cina quanto pagano di tasse? In Cina tutte le imprese cinesi pagano il 25%, di cui il 10% va allo Stato e il 15% va alla regione dove sorge l'azienda. Quindi 25%. Però attenzione, tra le aziende meccaniche che fanno high tech, ossia che lavorano nel settore dell'automotive, nel settore delle macchine agricole, nel settore dell'energia, scendono al 10%, va bene, se fanno due cose: primo, dimostrano che effettivamente migliorano, investono in ricerca e sviluppo; Secondo, se questo, questi 10 punti che lo Stato gli riduce, li concede, li reinvestono nella loro azienda moltiplicandoli per 3, cioè creano una riserva indistribuibile del 30%. Diciamo che comunque, male che vada, pagano il 25%, non, male di, che più, vada. Non di più. Lei invece è arrivata in Italia, si è messo lì, ha fatto i calcoli ed è arrivata a questa cifra, ma mi sembra una cifra un po' assurda, 85% di tasse. Dunque, le spiego, non sono io che pago l'85%, ma tutte le imprese manifatturiere italiane che hanno posti di lavoro. Io sono dentro, cioè anch'io sono all'85%, ma questo 85%, va bene, vale per circa la metà delle imprese italiane. Sì, chiaro, lei ha fatto il calcolo per lei, ma è chiaro, non solo lei, ma tutte le imprese. Non è esatto così. Noi abbiamo fatto il calcolo su un campione di una decina di imprese, raggiungendo l'80% 3-4 anni fa. Poi siamo stati assistiti da una indagine fatta da Lombarda e Prometeia su un campione molto più esteso di 5.980 aziende lombarde, da cui sono risultati, sono emersi questi dati impressionanti. E beh, insomma, impressionanti sì, l'85%, tanto che lei ha fatto un ragionamento molto semplice, cioè, con queste tasse molte imprese non ce la fanno, chi non ce la fa magari va a delocalizzare, va... Sì, attenzione che questa è una media, 85% è una media che va da 70 a 150, 140, quello che è. E noi abbiamo circa il 10% di aziende emerso da questa indagine, va bene, che è al di sopra del 100%, sì. Cioè vuol dire che se guadagna 100 paga lo Stato 150. Beh, insomma, il suo ragionamento è questo: perché, caro Stato, non abbassi le tasse di modo che io posso assumere un po' più di persone e attraverso l'assunzione di persone intanto si risparmia come cassa integrazione e poi queste persone generano guadagni, generano tasse a sua volta da pagare e quindi si innesta quel circolo virtuoso per cui lo Stato guadagna di più e io come gli altri imprenditori paghiamo di meno e tutti siamo contenti. No, non è proprio così, diciamo che io e gli altri imprenditori investiamo di più, e questo è il senso, e questo è importante, possiamo investire di più. Tenga presente che un'azienda che ha l'85% può investire pochissimo, quasi niente in ricerca e sviluppo, per non parlare di quelle che sono al di sopra del 100%, quelle che chiudono matematicamente nel giro di pochi anni. Lo si vede anche dai nostri brevetti, le domande di brevetto europeo, italiane tra il 2001 e il 2014 sono calate del 30%, mentre tutti gli altri paesi sono aumentati. Lei, Castoldi, come definirebbe lo Stato di fronte a tutto? Ha fatto tutti questi calcoli, ha fatto questa ricerca e dice: accidenti, adesso io se di fronte a questa domanda come rispondo? Lo Stato cos'è? Guardi, ce lo siamo chiesti anche noi, francamente, perché è chiaro che lo Stato, persone che si occupano di queste cose sono tutt'altro che stupide, anzi sono, devo dire, dei notevoli esperti e raffinati cervelli. Quindi mi viene il sospetto che quasi quasi sia voluta questa cosa qua. Beh, voluta per che cosa? Per affossare le imprese? Sarebbe un po' maliziosa come lettura, no? Sì, a meno che questa... in cambio ci sia stato qualche cos'altro. Ma non so, magari banalmente uno aumenta la pressione fiscale perché dice tanti soldi subito, sporchi e veloci, in modo da... Sì, ma è un calcolo sbagliato questo, perché... È poco lungimirante. No, non solo, ma anche nell'attuale, nel senso che quando una impresa è tassata in modo così forsennato, tenga presente che la media europea è 30%, sì. Anzi al di sotto del 30%, Austria 25%, Germania 29%. Va bene, il concorso del lavoro è inferiore al nostro, attenzione. Allora, questo porta un'azienda a chiudere nel giro di pochi anni, a seconda se ha 50, 60, 70, no, 90 o 120. Se ha 120 ci arriva molto prima, è logico. Va bene, quindi l'azienda, per salvarsi, che cosa è costretta a fare? È costretta a delocalizzare la produzione. Ma in questo dico che è poco lungimirante. Però, Castoldi, mi lasci presentare un altro ospite, un altro imprenditore che per la verità abbiamo già avuto, ma vogliamo tornare a chiedergli come va la situazione. Corrado Nela, titolare di Exergia. Buongiorno Nela e ben ritrovato. Noi l'avevamo chiamata qualche tempo fa per la questione delle, dei tanti soldi che lei deve dallo Stato, lei deve avere dallo Stato. Quanti erano i soldi per fatture che lei ha emesso e non ha mai incassato? Ma quando ci siamo sentiti eravamo nell'ordine dei 13 milioni di euro più o meno. 13 milioni di euro? No, glielo chiedo perché sa che c'è in ballo quella scommessa tra Vespa e Renzi, che se lo Stato non pagava uno dei due doveva andare a fare un pellegrinaggio, non so neanche bene dove, al Monte Senario. Com'è la situazione? Cioè lo Stato paga? La sta pagando? Direi assolutamente no, se non in una minima parte. Consiglierei il premier di cominciare il pellegrinaggio. Dice? Sì, assolutamente. Ma perché? Non c'è questo meccanismo che bisogna mettere le fatture, basta registrarsi su un sito, cioè ci spieghi? Sì, il meccanismo che è stato impostato è un meccanismo che probabilmente nel futuro potrà anche essere interessante. Al momento è un meccanismo impostato unicamente per dilatare ulteriormente i termini di pagamento, perché la certificazione dei crediti, così come tecnicamente definita, comporta un lavoro immenso da parte di coloro che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione, perché bisogna sostanzialmente terminalizzare tutte le fatture che sono in sospeso. Dopodiché questo portale anonimo certifica la correttezza di questi crediti, sempre con ovviamente un milione di problemi, perché poi le fatture le hanno perse, le hanno smarrite, tutto quello che. Però una volta che uno ha caricato delle belle fatture, le faccio un esempio. Non c'è il pagamento a quel punto? No, non è che non c'è il pagamento, c'è una simpatica riga che dice saranno pagati, e con una nota tra parentesi, tale data non deve essere successiva ai 12 mesi dalla data dell'istanza di certificazione. No, ma come, sempre un anno? Cioè ci vuole comunque un anno? Questo è un sistema per portare a un anno il pagamento, ovviamente senza interessi. Quindi lei su questo ha già pagato ovviamente le tasse, già da tempo, non riceverà un euro di interesse. No, perché ho già anticipato allo Stato le accise che vengono riscosse dal venditore di energia elettrica come, diciamo, sorta di sostituto di imposta, ho già versato l'IVA e quindi diciamo che sono in perdita del 130%, perché non ho incassato il 100% e ho anticipato il 30%. I famosi 130% che ci diceva Castoldi, però per un altro caso ovviamente. Sì. Ma senta, ma Nela, cioè, quindi adesso lei doveva 13 milioni, doveva avere 13 milioni, adesso? Cioè, adesso siamo intorno agli 11,5, perché diciamo che qualche piccolo pagamento viene fatto da quelle amministrazioni un po' più virtuose, sì. Essenzialmente quelle un po' più locali, diciamo. Però quando lei legge il governo sta saldando i debiti, li ha saldati quasi tutti, cioè mi pare di capire che dice no, innanzitutto il governo non ha mai usato questo termine, ha sempre usato un termine assolutamente improprio, perché se sempre ho sentito dire il governo ha sbloccato i fondi, sì. E sbloccare i fondi non vuol dire assolutamente niente. Qualunque cittadino italiano, quando deve assolvere un debito, apre il portafoglio e paga. Sbloccare i fondi è un qualcosa che non ha attinenza con il concetto di pagamento. I debiti si pagano, non si sbloccano. Quindi queste sono, diciamo, i soliti annunci che vengono fatti. Non voglio usare termini brutti che sono stati coniati in merito a questa, diciamo, questa attività di annunci. Quindi la situazione è esattamente quella che ha descritto. Lei non vorrebbe sentire sbloccato il debito, vorrebbe sentire pagato. Quando lei va a fare la spesa paga, non è che gli dice adesso ti sblocchi i fondi, perché sennò il salumiere non le dà il prosciutto, giusto? Purtroppo però non è sempre così. Castoldi, ci sono molti ascoltatori, ci scrivono via sms, anzi vorrei sentire anche Alfonso, ci chiama da Pescara. Buongiorno Alfonso. Pronto? Sì, dica. Buongiorno Milan. Niente, volevo dire che aveva ragione l'imprenditore. In che senso? Faccio l'esempio dell'80% in più delle tasse da pagare, io forse anche di più. Come sì, lui ha detto 80, 85 per la verità. Comunque, ecco, lei è 80 più, da artigiano? No, anche di più. Sì, allora, 85 faccio, è la media. È la media. 40.000 euro di denuncia di reddito dell'anno scorso. Sì. 15.000 di spese fisse tra benzina, io ho un'impresa di pulizia, sì, singola, lavoro solo io, di contributi, INAIL e spese varie generiche, 15.000 euro, ne rimangono 25. Sì. Quanto ha pagato? 5 li ho dovuti pagare, un attimo, 5 li ho dovuti pagare dell'anno precedente perché non sono riuscito a fare il fatturato che avevo da mangiare, 7 non riscossi. Mm-hmm. perché ho emesso fatture e non mi pagano e non posso fare nulla. Questo capita. Ecco, è arrivato 19.000 euro di tassa. E quindi praticamente si è giocato tutto. No, non l'ho pagato, scusa, come faccio a pagare? No, dico, sei giocato... No, infatti, quindi non le ha pagate o si giocava tutto, cioè non guadagnava niente, oppure lei dice... Non le ha pagate. Alfonso, è abbastanza chiaro, i calcoli li ha fatti. Castoldi ha sentito, Alfonso da Pescara è un artigiano, ma molti ascoltatori ci chiedono se ci può aiutare a capire in un minuto come è riuscito ad arrivare a calcolare questo 85% di media, cioè perché 85%, questa cifra da dove viene fuori? Viene fuori da questo studio a San Lombardo Prometeia sul campione di 5.980 aziende lombarde, hanno esaminato i bilanci su 5 anni, mi sembra dal 2008 al 2012, va bene, e dall'esame di questi bilanci si vede la pressione fiscale che media, c'è all'85. Allora, la pressione fiscale media su tutto il campione è del 52%. Sì. Però vede, come dire che gli italiani mangiano tutti un pollo a testa, poi scopre che la metà ne mangia due e l'altra metà fa la fame e non mangia niente. Allora noi siamo andati, abbiamo elaborato questi dati, va bene, per dividere in due sottomedie. E le due sottomedie dimostrano che circa la metà, l'Italia si divide in due metà, le imprese italiane, la metà sono su una media del 35% e l'altra metà sono su una media dell'85%. Perché questo fatto qua? Perché il discriminante, quello che gioca a spostare da una parte o dall'altra, sono semplicemente i posti di lavoro. Per come sono congegnate le nostre tasse, va bene, per esempio l'IRAP è un 3,9% che moltiplica tutta una serie di addendi, tra cui il più importante è il costo del lavoro. Sì. Allora, se lei elimina il costo del lavoro, l'IRAP scende a 3,9%. L'IMU è un'altra tassa che ha un'incidenza notevole, drammatica, va bene, e si calcola sui terreni e sugli edifici industriali. È logico che se lei ha posti di lavoro, quindi ha macchinari, deve avere anche capannoni in cui metterli. Sì. Quindi anche questa è indirettamente collegata ai posti di lavoro. Giusto? No, ma è chiaro. Mediamente abbiamo scoperto che le nostre tasse, in tanti casi sono al 90%, e sono fatte da tre parti, un terzo, cioè 30% di IRES, 30% di IMU e 30% di IRAP. Se lei tira via i posti di lavoro, riduce quasi a zero IRAP e IMU. Sì. E quindi l'IRES si arriva intorno al 35%. Pertanto, nella metà che paga mediamente il 35% ci sono le imprese commerciali, cioè le imprese che non hanno posti di lavoro, sì, che sono anche quelle che hanno delocalizzato. Insomma, devo dire, i calcoli così, ascoltarli in radio non è neanche semplice, però il concetto è che voi avete fatto una ricerca per arrivare a dire questi, arrivare a fare una sorta di appello, a dire abbassate le tasse, caro Stato, abbassa le tasse in modo che possiamo investire di più, investire in posti di lavoro, eccetera. Vorrei concludere con Nela, a capire Nela, ovviamente, con quel foglio che voi avete nel quale c'è scritto dopo le vostre belle fatture certificate messe sul portale si pagherà entro 12 mesi. Lei entra in banca e dice: ecco qui, io tra 12 mesi avrò questi soldi, mi date un bel mutuo per questo, mi date un bel prestito, mi fate In linea teorica io entro in banca e chiedo un'anticipazione di questi fondi, su cui ovviamente, ammesso che la banca la conceda, sono tenuto a pagare degli interessi. Quindi il riassunto è fatture del 2012, perché nell'esempio che le dicevo la prima fattura è del 17 febbraio del 2012, quindi un credito nei confronti dello Stato dal 17 febbraio del 2012, ammesso e non concesso che lo riesca a smobilizzare a novembre del 2014, per smobilizzarlo devo pagare ancora degli interessi. Quindi ho fatto una fornitura di energia elettrica, ho anticipato le accise, ho anticipato l'IVA, non prendo i soldi da 2 anni, e per provare ad avere qualche sorta di liquidità in più devo ancora pagare gli interessi. Beh, insomma, questa è la situazione. A chi ci scrive evasione quattro volte in maiuscolo come se fosse la soluzione, ma insomma, poi al solito l'evasione non è la soluzione giusta. Comunque, io ringrazio Fabrizio Castoldi, ringrazio Corrado Nela, Fabrizio Castoldi da BCS Group e Corrado Nela di Titolare di Exergia per essere stati con noi. Dopo la pubblicità ci sono anche tanti ascoltatori, state con noi, riprendiamo 24 mattino. Allora, le 8 e 40 minuti, sono molti quelli che ci scrivono, ma insomma l'evasione è l'unica soluzione, non pagate più le tasse a questo Stato ladro. Dopo l'analisi e dopo aver ospitato Fabrizio Castoldi e Corrado Nela, due imprenditori che ci hanno raccontato un po' tutte le varie vicissitudini con lo Stato, ma invece ora vogliamo parlare un po' di politica, perché la notizia per molti giornali, la notizia del giorno, il fatto che due deputati del Movimento 5 Stelle siano stati espulsi. Si tratta di Paola Pinna e Walter Artini, due deputati che sono stati espulsi con votazione sulla rete perché non avrebbero dato indietro parte della diaria, quindi violando una delle regole del Movimento 5 Stelle. Saluto l'onorevole Walter Rizzetto del Movimento 5 Stelle, buongiorno onorevole, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno a lei. Allora, intanto mi faccia capire, perché c'è o no una sorta di divisione all'interno del Movimento, nel senso, lei da che parte sta? È di quelli che dicono che è stato giusto tutta questa procedura oppure c'è qualcosa che non va? Io sono sempre stato contro le espulsioni, quindi anche questa volta mi sono espresso non a favore delle espulsioni di Massimo Artini e di Paola Pina. Ora è del tutto evidente che c'è un po' di confusione in queste ore, in questi attimi, da ieri pomeriggio, diciamo, perché molti deputati non si aspettavano questa reazione a tratti scomposta per quanto riguarda i due deputati, e molti deputati hanno collaborato fattivamente, perché ricordo che sia la Pinna sia Artini sono due deputati che comunque hanno lavorato sodo in questi ultimi due anni. Ma qual è il motivo per cui? Cioè, io non ho capito, tutto è nato da che cosa? Beppe Grillo ha fatto un post dicendo che questi due deputati avrebbero fatto che cosa? Non avrebbero rendicontato e restituito le somme che a noi sono in eccedenza rispetto ai nostri emolumenti, quindi alle diarie piuttosto che agli stipendi. Ma questa è una cosa non vera, a quanto pare, visto che sia Paola Pina sia Massimo Artini hanno prodotto addirittura i bonifici E allora da dove nasce secondo lei questo? Cioè, avevano fatto qualcosa che non andava, qualcosa che secondo le regole di qualcuno non stava più bene? Non lo so, guardi, in questo momento non dovete chiederlo a me, perché non sono riuscito a darmi una risposta. Cioè, per esempio, visto che lei è comparso in TV e questo ha suscitato grande dibattito nel Movimento, perché sappiamo i talk sono vietati secondo Beppe Grillo, non è che magari hanno fatto qualcosa, per esempio, non è che rischia anche lei? Ecco, questa è la domanda. Ma guardi, in politica si rischia tutti i giorni, quindi io ho quasi 40 anni, non penso di dovermi preoccupare di questa cosa, o quantomeno non penso di aver fatto nulla per meritarmi un'espulsione, ho sempre, tra l'altro, voglio dire, portato acqua al mulino del Movimento 5 Stelle, anche attraverso una critica, ma sì, una critica costruttiva. Io pochi giorni fa, lo sapete, sono andato a fare una mezz'ora, un 40 minuti in televisione, giusto per ricordare che alla tornata elettorale di domenica scorsa, ovvero le regionali in Emilia e in Calabria, non siamo riusciti ad ottenere tutto il successo che secondo me meritiamo, e quindi è giusto fare autocritica ed è giusto parlarne quantomeno, perché si fa autocritica quando le cose vanno bene, o perlomeno io sono abituato a fare così. Figuriamoci quando le cose, non dico che non vadano benissimo, sì, perché io comunque faccio i complimenti ai cinque consiglieri regionali che sono entrati in Emilia, ma parlarne secondo me sarebbe stato sicuramente interessante. Senta, Massimo Artini fa un'intervista a Repubblica dicendo: non mi fido del voto. Lei si fida perché è tutto controllato su questa piattaforma che credo sia faccia capo alla Casaleggio Associati, la società di Casaleggio. Cioè, lei si fida di questo 70% che ha detto espelleteli? Io mi sono sempre fidato sinora di Beppe Grillo in quanto garante rispetto a tutto quanto è nelle more del Movimento 5 Stelle e anche all'interno dello stesso blog. È altrettanto chiaro che se ci fosse un sistema di certificazione dei voti del blog di Beppe Grillo, io sarei sicuramente un po' più felice. Cioè si fida di Beppe Grillo ma anche di Casaleggio? Perché io conosco Beppe Grillo, che è la nostra voce mediatica. È chiaro che insomma, Casaleggio è l'alter ego in questo caso di Beppe Grillo, però io ho visto più volte Beppe Grillo, ho frequentato dai parchi, dalle piazze, come voi ricorderete, in campagna elettorale Beppe Grillo. Casaleggio lo conosco molto molto meno. Molto meno. Senta, qualcuno dice che Beppe Grillo è un po' assente in questo momento, voglio dire, magari sarà anche un po' stanco dopo aver fatto tutte le campagne elettorali, dopo aver fatto... È un problema questo per il Movimento 5 Stelle, la mancanza di Beppe Grillo? Ma non lo so se è un grandissimo problema, nel senso che comunque il Movimento 5 Stelle deve imparare a camminare un po' anche con le sue gambe. Ricordiamo che Beppe Grillo sono molti anni che si spende gratis et amore dei per il Movimento 5 Stelle, quindi probabilmente è in una fase un po', non dico di stanca, ma quantomeno di riflessione. Dice non è che posso sempre portarlo avanti io, e quindi è giusto che ad un certo punto i figli inizino a camminare un po' da soli. Mi sembra però evidente che in campagna elettorale noi abbiamo ancora bisogno, soprattutto in campagna elettorale, di Beppe Grillo, del nostro ariete mediatico, ecco, per così dire. Secondo me è mancato questo ariete mediatico in seno all'ultima tornata. E i risultati si sono visti, ma si parla addirittura per qualcuno di scissione, leggendo oggi i giornali. So che voi giornali dite vabbè, ma non leggete sì, i giornali, ma... però no, si vabbè, parla di... si leggano i giornali. L'attribuiscono anche a me. Lei vuol fare. Lei si sente pienamente nel Movimento 5 Stelle? Io mi sento pienamente all'interno di Movimento 5 Stelle, però desidero che venga fatto, ma non perché lo chiedo io, lo chiedono in molti. E non lo chiedono in molti deputati, lo chiedono in molti attivisti, lo chiedono in molti votanti, lo chiedono in molti simpatizzanti, lo chiedono in molti gruppi locali. Chiedono che venga fatta una riflessione, perché mi pare che insomma, qualche problema sia lapalissiano che ci sia. Ecco. Cioè il più grande problema secondo lei qual è? Io direi che dobbiamo fare due cose, dobbiamo ricominciare istantaneamente, se non iniziare, a fare due cose importanti. La prima è fare politica, la seconda è raggiungere dei risultati. Anzi, ne aggiungo anche una terza. La terza è riuscire, come prima detto, ad arrivare alla testa della pancia di tutto l'elettorato che ci meritiamo. C'è il cellulare che è un po' andato via. Comunque arrivare a tutto l'elettorato che ci arrivare merita. A tutto l'elettorato che il Movimento 5 Stelle si merita, perché io penso che se il Movimento 5 Stelle parla di temi e parla del suo programma elettorale non ha nulla da temere nei confronti di altri competitor politici attualmente presenti sulla scena politica italiana. Però è altrettanto chiaro che gli italiani fuori da questi palazzi si aspettano dei risultati, e io penso che una forza politica che ha ottenuto il 25% dei voti del paese alle politiche del 2013 possa e debba riuscire ad ottenere dei risultati per cambiare in meglio questo disgraziato ma bellissimo paese insomma dentro il quale abitiamo. L'ultima domanda è questa, Rizzetto, cioè oggi il Corriere della Sera pubblica i 22 fuoriusciti a questo punto dal Movimento 5 Stelle. Quando escono in 22 vuol dire che c'è un qualche problema di democrazia secondo lei, oppure è fisiologico 22 persone già fuoriuscite? Non penso che ci sia un problema di democrazia, penso che ci sia un problema. C'è comunque un problema da affrontare. Intanto la ringrazio, buona giornata all'onorevole Walter Rizzetto del Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle oggi è pieno le pagine di giornali di appunto queste tensioni che ci sono all'interno. Noi andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi ricordatevi, noi ogni giorno raccontiamo la storia di un italiano che ci sta ascoltando in questo momento dall'estero, ci ascoltate da tutto il mondo e ci state scrivendo 24 mattina. Allora, la storia degli imprenditori prima molto colpito e ci stanno chiamando molti ascoltatori. Vorrei sentire Arian da Bologna. Buongiorno Arian, che vuoi dirci? Buongiorno Milan, buongiorno. Niente, io volevo dare la mia solidarietà a questi signori imprenditori. Sì. Che insomma, non si può pagare 130% di tasse, andiamo, dove viviamo? Quelli sono casi forse estremi, però ci sono. Estremi, ho capito, ma come si può fare? Io spero che i signori mi ascoltino. E gli direi, se è così, se è vero, io me ne scapperei via. È inutile. No, ma è chiaro, a investire da un'altra parte, però è una scelta, Sari, anche magari alcuni possono fare, altri no, è una questione, una è anche legata alla propria terra, alle proprie abitudini, alla propria famiglia, alle proprie tradizioni. Comunque questo è l'invito che fa Stefano da Roma. Buongiorno Stefano. Buongiorno Milan, buongiorno. Eccoci. La mia, diciamo che la parte della mia stima nei suoi confronti l'ascolto sempre, raccolgo la sua provocazione. L'evasione non è una soluzione, sono d'accordo con lei. Ma per una persona che sta perdendo lavoro, famiglia, sicurezza e tutto, qual è la soluzione immediata? Ma guardi, ma infatti io a quell'artigiano prima che ci ha chiamato da Pescara, dice io pagavo le tasse o mangiavo, io non è che so dirgli tu sei un criminale perché non hai pagato le tasse, perché voglio, non me la sento, Stefano, capisce? Non me la sento, Fa una cosa del genere, ecco, questa è la mia opinione. No, ma infatti anch'io non me la sento di dirglielo. Comunque la ringrazio per questa sua testimonianza. Ovviamente sono tante le testimonianze degli ascoltatori. Allora, come sapete, noi ogni giorno raccontiamo la storia di un italiano che ci ascolta dall'estero, e sono tantissimi quelli che stiamo scoprendo ci ascoltano dall'estero. Anzi, vi invito a mandare una mail, 24@radio24.it. ci avete chiamato e ci avete scritto da mezzo mondo, ora cercheremo un giorno alla volta, magari ogni tanto le chiameremo un paio, di recuperare tutte le vostre storie, di recuperare tutte le vostre testimonianze. Chiaramente non è facile, siamo stati alla DIG nelle Seychelles il primo giorno, ieri eravamo credo a Jakarta in Indonesia, e oggi dove andremo non lo so, perché le linee telefoniche non prendono, era in linea fino a un secondo fa, ma è caduta la linea, ma comunque tra poco vedremo dove andremo. Ciao Italia! E ciao Italia! Ve lo ricordate? Ciao Italia! Qualcuno un giorno mi ha detto. Allora voglio salutare Danilo. Danilo, buongiorno, buonanotte, buon mattino, da dove sei? Da dove ci ascolti, Danilo? Buongiorno, ascolto da Lagos. In questo momento abbiamo lo stesso orario. Lagos in Nigeria, siamo nel cuore dell'Africa, anzi il paese più popoloso credo dell'Africa, la Nigeria. Che ci fai lì in Nigeria? Faccio retail manager per un gruppo nigeriano, gestisco 60 negozi di vari marchi internazionali in Nigeria. Gestisci 60 negozi, ma di abbigliamento? Mi sembra di aver capito. Accessori, scarpe, ecco, se vuoi ti dico i nomi. No, perché la linea telefonica ovviamente dalla Nigeria non è il massimo. Ma come fai ad ascoltarci? Come ci ascolti? Via l'application. Sì, la mattina quando mi svegli l'application dello smartphone. L'app sullo smartphone è fantastico. Cioè, ci ascolti dalla Nigeria. Che cosa pensi dell'Italia da lì? Dimmi una cosa che pensi. Ma sono italiano, penso bene e male. Penso che abbiamo tante cose belle e abbiamo tante cose brutte da gestire. Io so, ieri abbiamo fatto una chiacchierata con la redazione, so che tu giri un po' il mondo da quando avevi 20 anni praticamente, no? Dove sei stato? Sì. Dove sei stato? Stato un po' in Giappone, un po' in Bruxelles, 6 anni in Medio Oriente, a Damasco, per non dover scappare per la guerra. Ah, beh, in Siria, è certo. Stato un annetto in Italia, sono venuto qui da un anno e mezzo. Che cosa raccontano dell'Italia lì in Nigeria? Dicono qualcosa, non gliene frega niente di noi? Ma in generale no, l'Italia sinceramente negli ultimi anni, io almeno 10 anni che sono fuori dall'Italia, quindi vedo spesso come vedono l'Italia dall'estero, e sinceramente in declino, se ne parlava molto di più, ricordo nel 2002 quando ero in Giappone, l'Italia era il massimo, piena di ristoranti e tutto, poi un po' girando è tutto visto, ancora in Medio Oriente nelle prime del 2000 si vedeva anche come presenza di aziende, di marche e tutto, poi piano piano adesso siamo diventati sinceramente marginali. Marginali. Nell'abbigliamento si hanno, sì, altri paesi europei hanno. Spagnoli, insomma, siamo marginali. No, anche nell'abbigliamento, Danilo, mannaggia, se anche nell'abbigliamento siamo diventati marginali. L'unico che un po' resistono è diciamo, l'alta gamma. L'alta gamma. No, vabbè, Danilo, ovviamente il cellulare non è il massimo della vita dalla Nigeria, ma intanto ti ringraziamo e continua ad ascoltarci, continua a seguirci, Danilo. Ci ha mandato anche una foto, anzi, dico a tutti quelli che ci ascoltano dall'estero, mandateci anche una foto quando vi chiamiamo. Lui ce l'ha mandata una bellissima in mezzo ai bambini nigeriani che abbiamo pubblicato sul nostro profilo Facebook. E allora finiamo questa settimana con Danilo, 39 anni, da Lagos. Ci ascolta dalla Nigeria. Settimana prossima da dove riprenderemo? Chissà. Intanto saluto Lorenzo Nespoli che oggi è il suo compleanno. Auguri. Insieme a Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni e il compleanno anche di Miriam, la nostra centralinista. A lunedì. In campagna e in città. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Trovi un altro più bello, che problemi non ha. 24 mattino.